Ascoltato appunto Casey Anderson, come dicevamo prima, è una produzione che gioca sul suono, ma anche sul concetto appunto di non aria, di mancanza appunto di aria, quindi di luogo chiuso, che avete sentito comunque, e poi genera di conseguenza sì, una ricostruzione anche. E così ambientale di fatto, quindi l'animitazione anche come appunto stimolo di creatività, in questo caso appunto sonorizzazione dell'ambiente stesso, ricreazione sonora ma anche ambienti appunto domestici, come possono essere insomma ambienti anche dove siete in questo momento, se non siete insomma lungo autostrade lunghissime a Los Angeles sfrecciando con automobili oppure in altri posti insomma meno domestici. E passando da Casey Anderson a un gigante della sperimentazione sul suono ambientale, nel senso di trarre un suono anche qua da quasi tutti gli ambienti trattati, e sono veramente tanti, da Francisco Lopez, geografie sonore, psicogeografie che vengono create, ricreate, momenti di anche grande poetica legata all'ambiente, ambiente in tutti i sensi, sia come ambiente sonoro, sia anche proprio come. E ambiente anche inteso in termini sociali, politici, e una riflessione che va avanti da molti anni, quella di Lopez. In questo caso troviamo anche quella voglia anche di andare a trovare un elemento estremo, aeriforme evidentemente, prima accennavamo anche al soffio, decisamente legato alla vita, quello del vento, andando tra l'altro veramente a prendere quell'elemento che più è difficile da registrare, proprio nel vero senso della parola, perché provateci insomma con anche un semplicissimo microfono che adesso insomma sono in dotazione a tutti tramite telefonini, eccetera. A registrare il vento. Beh, la maggior parte dei casi sentirete soltanto veramente un rumore stordente, per niente affascinante, anzi, piuttosto così ottundente, ma nel senso insomma più anche sterile dell'audiofonia, anche insomma del bruttismo, perché poi da queste parti si parla. E anche Lopez, tra l'altro, con lavori che partendo dal feed recording, dal trattamento ambientale, vanno verso anche un noise anche estremo a volte. In questo caso Lopez lavora in Patagonia e riesce incredibilmente a filtrare questo vento anche molto forte. Immaginatevi insomma una situazione decisamente aperta, quindi siamo al contrario di Casey Anderson, dal luogo domestico piuttosto chiuso, quindi senza aria, no? In Noir, senza titolo tra l'altro. Invece qua è Wind, quindi un titolo anche importante appunto come questo con l'elemento appunto geografico preponderante come è quello della Patagonia e quindi un ambiente che evidentemente non poteva che essere molto molto forte in termini di evocazione anche sonora, e di poi quello che riesce a fare nel lavoro di trattamento del suono del vento, appunto Lopez, quindi di evocare anche, oltre che di far sentire di fatto questo vento, ma farlo sentire nel vero senso della parola, non di far strombare le casse appunto con registrazioni che, ripetiamo, sono veramente difficili legate alla registrazione appunto del vento, e creando un momento anche molto, molto forte, molto molto attraversante, potremmo dire, in questo caso appunto è un vento che sul serio appunto ci trapassa anche a livello sonoro. Francisco Lopez da appunto il suo Wind Patagonia per continuare questo 451 aereo. e dalla Patagonia di Francisco Lopez, senza soluzione di continuità, anzi mixandoli, e abbiamo ascoltato la Scozia invece di Chris Watson, che non è scozzese ma si è andato a tuffare intorno al 2002, e tra settembre e dicembre, quindi ci siamo come periodo, appunto dentro la campagna scozzese. Avete sentito anche infatti qualche bovino poco contento probabilmente dalla presenza microfonante di Chris Watson, che lamentava insomma questa presenza umana, uccelli che di fatto prendono insomma buona parte del suono anche della campagna, non solo scozzese evidentemente. C'è tanto vento, tanta aria, appunto campagna aperta, campagna anche abbastanza insomma così impegnativa in termini climatici. In effetti Weather Report è il disco del 2003 edito dalla Touch, uno dei grandi momenti di non soltanto documentarismo, perché anche quello fa Chris Watson lavorando spesso anche per la BBC, appunto, quindi anche proprio sull'aspetto anche della mappatura sonora e della registrazione appunto ambientale, ma riesce anche appunto come Lopez, d'altronde in Patagonia, che abbiamo prima ascoltato con Wind, e proprio a non soltanto ricreare un ambiente sonoro che poi appunto ci porta direttamente a delle immagini. Ovviamente sono musiche, se vogliamo considerare musiche, composizioni legate al field recording, al trattamento del suono concreto, non però soltanto nudo e crudo, ma con una poetica e con un viaggio, una narrazione, che di fatto rendono anche assolutamente eccezionali i lavori di Watson dalla metà degli anni 90 fino ai nostri giorni, con appunto questo senso del captare, quasi una sorta di antenna nel captare ambienti, suoni, situazioni che si sviluppano dentro queste, in questo caso, campagne scozzesi, e come d'altronde appunto in Lopez, nel suono estremo di una terra estrema come la Patagonia, e il tutto quasi voler documentare probabilmente quello che anche un altrove sonoro, un altrove per chi ascolta in lontananza rispetto a questi luoghi, ma non solo, c'è anche proprio una ricreazione di un ambiente che non è, come prima dicevamo, rispetto a Casey Anderson con il suo ambiente appunto domestico, e non semplicemente appunto la ricreazione anche in termini ludici e divertiti, ma anche proprio il disegno e il ridisegnare che questo comporta, e il suono d'un ambiente non può essere soltanto un suono neutro, è una registrazione, quindi è un taglia, cucire, oppure è una scelta, no? Rispetto a quello che in quel momento viene sentito, nel vero senso della parola, come suono, come importanza del fenomeno appunto sonoro, che diventa appunto fenomeno anche audio in questo caso. E per finire questo volo, dopo insomma le previsioni anche climatiche del Weather Report di Chris Watson, che forse chissà, memore anche della storica militanza in Cabaret Voltaire, e quindi anche storici guastatori, chissà se non ha voluto anche giocare sul titolo della storicissima band jazz rock che già cantava inizi degli anni 70, il corpo elettrico, Sing to Body Electric. E per finire, per concludere, uno degli altri grandi trattati sonori che hanno come protagonista un autore anch'esso eccezionale nel saper cogliere ambienti, soprattutto quegli ambienti sonori, in questo caso legati all'aria, come tutto questo 451 di questa sera, 451 Richard Chartier, per meglio dire, visto insomma un cognome che evidentemente ci riporta in Europa, anche se poi in terra statunitense, lavoro anch'esso pluridecennale, con un aspetto che è legato sia all'ambientazione e al trattare gli ambienti, soprattutto in termini installativi. Ma Chartier è uno dei grandi compositori dei suoni silenti, della composizione che va verso veramente un tale azzeramento anche dello stesso ambiente, che rasenta quasi appunto il silenzio, una sperimentazione che dagli anni 90, memore ovviamente del famoso silenzio di Cage, ma non solo, nelle sperimentazioni ad esempio di Morton Feldman, porta appunto a comporre suoni e musiche che appunto sfiorano veramente il silenzio, e come anche fenomeno appunto astratto, quasi spostando appunto la temporalità e anche la spazialità, in questo senso è decisamente aereo, aereo anche perché il lavoro che andiamo a ascoltare appunto di Chartier è proprio sugli aerei, sulla sinfonia dell'aereo, degli aeroporti, e il Port Symphony, questo lavoro eccezionale che vede vari autori, tra l'altro anche uno stesso Lopez ascoltato prima invece in Patagonia, lavorare appunto su uno dei momenti più di grande vocazione, che evidentemente insomma può essere il volo, il compimento anche per molti versi di un sogno anche sonoro, e in questo caso appunto Chartier ci abbandona così questo suono reforme che diventa una sorta di elevazione, forse ancora più in alto di quello che può essere già il volo dell'aereo, quasi appunto a trattare sinfonicamente quello che è uno dei rumori più suggestivi di sempre, quello del rombo appunto dell'aereo, qua trattato anch'esso in maniera molto fine da Chartier, anche qua un paradosso, no? Quello del suono silenzio, il suono addirittura silenzio tratto da probabilmente una delle macchine più rumorose di sempre, appunto quella dell'aereo. Vi abbandono qua, ci abbandoniamo, come dicevo prima, a Chartier, a questo volo e a questa sonorizzazione sinfonica, alla sua maniera appunto dell'aereo, del volo dell'aereo, degli aeroporti, e con le loro sonorità che già hanno tra l'altro influenzato e indicato l'ambient come nascita con Brian Eno e Music for Airport, ma questa è un'altra storia, neanche tanto diversa, ma è un'altra storia. Vi rimando a 451 frammenti sonori e 451 futuri rumori, oltre che a 451 intersezioni, l'ho detto più o meno tutti, 451, poi ce ne metteremo anche a qualche un altro col passare del tempo, e appunto Chartier, tra due settimane torna Max Macchia a farvi compagnia, o scompagnia magari, chissà. Ciao.